Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Ricky e Franz dei Fan Crimini, band che si esibirà questo venerdì al Mercato Sonato. Ciao ragazzi, buon pomeriggio e benvenuti a Radio Città Fujiko. Ciao a tutti, buon pomeriggio a voi. Per iniziare vi chiederei ragazzi di raccontarci un po' della nascita dei Fan Crimini, band che nasce in maniera un po' atipica e poi negli anni sviluppa poi un percorso artistico davvero interessante. Ci spiegate meglio questo percorso? Bologna è stata anche una delle città che ci ha visto proprio in tutte le nostre sfaccettature, sia da quando facevamo il sound system Fan Crimini, quindi organizzavamo eventi, feste proprio a tema funk, ormai nel lontano 2007-2008, possiamo dire che ha questa genesi proprio di riunire tutti gli appassionati, amici, disc jockey, musicisti della nostra città per fare delle feste. A queste feste però ci piaceva, oltre che fare DJ, ci piaceva anche suonare dal vivo, perché poi noi siamo anche appunto della band, più che anche oltre che DJ. Abbiamo sempre voluto mischiare il live e la cultura del sound system, fondamentalmente nasce per questa, con questa idea, anche Rimini. Quando a Rimini, diciamo, le situazioni, i nostri locali sono un po' scemate, abbiamo deciso di proseguire come band. Ecco, te la faccio breve, più o meno è questa l'idea che c'è stata dietro. E questa cosa è successa nel 2016. Il primo EP l'abbiamo fatto con Fresh Show, che è un'etichetta di Firenze che insomma aveva radunato un po' tutti i musicisti della scena elettronica del periodo, quindi Godless Computer, Godu Gong, con cui siamo molto amici a Bologna, insomma collaboriamo spesso, ed è nata una scena, un po' un nostro mondo che ci siamo autocostruiti per fare il nostro sound. Quest'anno è uscito anche il vostro ultimo lavoro, Odeon, che vanta anche una collaborazione con Stefano Bollani. Come nasce questo progetto? Nasce in realtà un po', noi abbiamo la fortuna di conoscere Stefano da un po' di tempo ed era un po' che l'idea di coinvolgerlo in qualche modo, insomma, era già maturata, però sai, con un artista come Stefano lui è molto sempre impegnato, non è facile, però abbiamo avuto fortuna, gli abbiamo mandato questo brano, a lui è piaciuto, siamo riusciti ad andare in studio insieme a realizzarlo, è venuta sicuramente uno dei brani più evocativi dell'album e lui lo ha arricchito come sempre, insomma, a suo modo, in maniera eccezionale, quindi siamo stati molto fortunati e ne siamo molto molto orgogliosi di questa collaborazione. Rispetto anche alla serata di questo venerdì al Mercato Sonato, vi chiedo anche come si caratterizzano i vostri live. Prima dicevate che siete anche molto fedeli al sound system, quindi come si coniuga tutto questo in una vostra serata live? Siamo un gruppo da festa, fondamentalmente ci piace l'idea di anche di far ballare il pubblico con, appunto, con del funk piuttosto tirato, ma non mancano anche dei momenti più intimi, più di ballad, più blues. Ci sono anche mezzo citazioni di artisti che amiamo, che ogni tanto buttiamo dentro. È un live molto variegato, c'è dell'elettronica, c'è tutto un crescendo, ecco, verso poi quello che vorremmo far diventare poi un party, ecco, fondamentalmente è un party però live, dove appunto basso, chitarra, batteria, un po' anche alla vecchia con le tastiere, si fa tutto quello che si può. Sì, abbiamo dai anche molti momenti in cui la musica non ha pause, è un flusso continuo, un po' come se fosse quasi un DJ a suonarla, abbiamo davvero dei momenti in cui i pezzi proprio si susseguono senza sosta. Così, perché ci piace un po' quel mondo lì, ci piace legare le tracce, esatto, come quando siamo in console più o meno. Ragazzi, io vi ringrazio e chiaramente invito anche tutte e tutti ad esserci questo venerdì 28 ottobre per il vostro live al Mercato Sonato. Grazie ancora. Alla grande, vi aspettiamo. Vi ringraziamo ancora e ci vediamo venerdì al Mercato Sonato. Facciamo sentire questo album Odeon e speriamo che vi piaccia.